Noi siamo cooperativa Senape con refugiati, quindi abbiamo venuto con due squadre, uno Senape e l'altra refugiati. Poi la Senape è la lavoratori di la cooperativa e i refugiati sono dei ragazzi che sono con noi. Va bene. Sì. Allora, perché voi siete venuti qua per partecipare? Questa domanda è troppo veramente importante perché noi, uno motivo è che perché stiamo tutti cercando di fare una cosa per la cosa di razzismo in mondo. Quindi un torneo come questa, che c'è tantissima gente da parte di tutto il mondo che stanno tutti dicendo la stessa parola, noi non possiamo diventare l'ultimo che venire a partecipare in questo torneo. Così siamo qui con gli altri.